Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Qua già qualcuno scherza su WhatsApp e dice: quando torna Barisoni in 3, 2, 1. No, non l'avete ancora scritto, però Sebastiano Barisoni, ve lo dico subito, torna domani. Con gli occhi, il pensiero e se volete anche il cuore rivolto a quello che sta succedendo a Londra in queste ore, naturalmente tanto per il dramma complessivo che tocca la città quanto per la sorte incerta, come avete sentito da GR24 e dall'intervista che ha realizzato la nostra Giorgia Scaturro, che è andata sul posto, la sorte incerta per due famiglie di italiani con bambini, con il cuore dunque, il cervello, la mente, il pensiero rivolto a quello e come dire, la necessità di darvi aggiornamenti appena ne avremo. Iniziamo questa puntata di Focus Economia, nella quale toccheremo oggi molti argomenti. Parleremo parecchio di lavoro, innanzitutto del lavoro pubblico, perché oggi l'Istat ha diffuso un primo elemento del suo censimento delle amministrazioni pubbliche, dove, se mi consentite, io leggo un piccolo paradosso, anche se in Italia c'è da aspettarselo, è abbastanza curioso che l'Istituto di Statistica debba effettuare un censimento per le amministrazioni pubbliche nel 2017, quando tutti i dati dovrebbero essere aperti e disponibili. Però tant'è, arriva questo censimento delle amministrazioni pubbliche, nelle quali si evidenziano alcuni elementi che riguardano il lavoro. Tra il 2011 e il 2015 i dipendenti pubblici sono scesi dell'1,1%, supponiamo, ma ne parleremo più avanti, in larga parte dovuto a prepensionamenti e a un blocco del turnover, mentre, ed è inutile che me lo sottolineiate, il dimagrimento, è una bruttissima parola, al quale sono state sottoposte le aziende private è stato molto più pesante. Ci sono vari altri elementi all'interno di questo rapporto dell'Istat, sono una ventina di pagine, è una prima parte di censimento. Vi sottolineo solamente questo perché è un tema cruciale del quale ci siamo occupati spesso e che riguarda anche la trasparenza della pubblica amministrazione, come vengono gestite le risorse pubbliche a prescindere dal lavoro dei dipendenti. Apprendiamo dall'ultima tabella presentata in questo rapporto dell'Istat che nel comprare servizi e beni, le amministrazioni pubbliche hanno usato per il 30% ancora l'affidamento diretto, ossia non si è andati a gara, non si è passati da Consip e non c'è stata una concessione, percentuale che sale al 65% nei servizi di assistenza sanitaria. Affidamento diretto, cioè affido ad un esterno, che a volte magari anche un interno, cioè un'azienda pubblica, senza passare da una gara, un lavoro, gli do un appalto. 65% nei servizi di assistenza sanitaria. Istruzione pubblica e ricerca 60%, e qua ci sono le università, qua avviene abbastanza normalmente, e poi in quelli del settore sociale oltre il 50%. Questi i dati che ci arrivano dall'Istat, non sono solamente questi, ce ne sono evidentemente molti altri, a partire, come si diceva, da quelli dell'occupazione, e questi affronteremo. Parleremo di lavoro anche perché oggi ci sono dati dei dati dell'Eurostat che sono molto importanti, perché ci fanno sapere che nell'Unione Europea e nell'Eurozona l'occupazione è ai massimi livelli. Livelli che non si sono mai raggiunti sostanzialmente nell'Eurozona e nell'Unione Europea. Come sappiamo, in Italia le cose vanno diversamente, ci sono varie velocità all'interno dell'Unione Europea, ma anche qua, come sempre, bisogna guardare dentro questi dati, senza toni trionfalistici, perché si segnala all'interno non solo di questo rapporto, ma di altri rapporti, come per esempio quello recente della Banca Centrale Europea, che spesso sono, non sono proprio lavori stabili, sono quelli che a volte vengono definiti McDonald's job, oppure i lavoretti, piccoli lavoretti, oppure i lavoretti come sono intesi per esempio nel diritto del lavoro tedesco. E dunque anche di questo ci occuperemo, andremo ad analizzare un po' più nel dettaglio questi dati. Ci occuperemo dell'attrattività del nostro paese verso gli investitori esteri. Oggi è uscito un nuovo rapporto curato dall'Associazione Italiana Banche Estere insieme al Censis, parleremo di questo, ma sarà anche l'occasione in realtà per tornare sul tema delle banche in generale, in particolare delle banche venete. Oggi ha parlato il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Nel frattempo resta sullo sfondo questo tema regolamentare, ossia una certa lentezza nella triangolazione tra Bruxelles, inteso come la Commissione Europea, evidentemente Francoforte, inteso come la Banca Centrale Europea, e l'Italia, per poi arrivare a delle soluzioni complessive che riguardino tanto le banche venete quanto il Monte dei Paschi di Siena. Sulle banche venete si sta ragionando, ormai lo sapete, su un'ipotesi che porti una serie di altre banche di dimensione nazionale, su tutte Unicredit e Intesa San Paolo, a intervenire per fornire capitale a queste banche. E vedremo che cosa succederà. Oggi, la giornata di oggi prevede, dal punto di vista degli appuntamenti societari, il consiglio d'amministrazione di Veneto Banca. Andremo ovviamente e come sempre sui mercati, mercati che oggi fanno segnare un ribasso, meno 0,42%, a metà giornata in realtà era positiva Milano. Meno 0,42% per Milano sul FTSE MIB, meno 0,32% sul FTSE All Share, con Francoforte che guadagna lo 0,42%, Parigi lo 0,20%. L'America è, e adesso ci arrivo, se lo schermo mi assiste, perfetto, meno 0,02% il Dow Jones, meno 0,13% lo Standard & Poor's 500. A dominare il listino oggi è Italgas, più 2,79%, Hughes Net A Porté che guadagna l'1,8%, Moncler l'1,4%, Terna l'1,3%, Luxottica che guadagna un punto percentuale. In fondo al listino Fiat Chrysler, meno 3,5%, Tenaris meno 2,7%, Buzzi Unicem altrettanto, Unicredit che cede quasi 2 punti percentuali, UBI Banca l'1,8% e giù anche Saipem dell'1,8% e Banca Generale dell'1,5%. ST Microelectronics prosegue il calo, meno 1,35%. Infine un ultimo argomento che affronteremo è quello del latte. La vicenda della Corte di Giustizia Europea forse l'avete sentita in GR24, l'avete sentita, ne abbiamo parlato anche oggi in effetto giorno, è la decisione della Corte di Giustizia Europea che dice, il tutto si è svolto sulla base di un ricorso di un'azienda tedesca, Lattiero Casearia, nei confronti di, o meglio dell'associazione dei Lattiero Caseari tedeschi nei confronti di un'azienda che vendeva latte di soia, e la Corte di Giustizia Europea gli ha detto, guardate, questo lo chiamate come vi pare, ma latte non lo potete chiamare, così come non potete chiamare formaggio quella cosa fatta col tofu, perché non è formaggio. Quella roba là, quel nome lo potete utilizzare solamente per i prodotti fatti che vengono da animali, quindi fatti con il latte. Questi temi, 349-238-6666, il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, e siamo anche in diretta, l'ho scoperto solamente oggi, anche qua in Focus Economia siamo in diretta sulla pagina Facebook di Focus Economia, sulla pagina Facebook di Radio 24. Se volete potete commentare e dire la vostra anche là. Le notizie in breve di oggi. Iniziamo dalle materie prime. L'oro in guadagno dello 0,8% a $1,275 l'oncia, mentre invece il petrolio sta prendendo una bella scoppola. Il WTI con consegna a luglio cede il 3,36% in questo momento a $44,8 al barile. Per quanto riguarda il Brent, siamo con consegna d'agosto meno 3,26% a $47,13 al barile. Lo dico perché sappiamo che qua c'è anche qualche operatore che ci ascolta, e quindi lo ribadisco, può darsi che le cose stiano lievemente cambiando, perché i nostri monitor per quanto riguarda il petrolio nello specifico, non i mercati in genere, sono ritardati di una ventina di minuti, però il quadro è questo. Abbiamo dagli Stati Uniti le vendite al dettaglio in calo dello 0,3% sotto le attese e l'inflazione in maggio giù dello 0,1%, anche qua sotto le attese, al netto di energie alimentari è salita l'inflazione dello 0,1%. Qualche ascoltatore ci ha già scritto, forse prima della trasmissione o quasi a ridosso all'inizio: l'inflazione ormai è a livelli soddisfacenti, Draghi deve interrompere l'acquisto di titoli di Stato. No, perché è confermato il rallentamento dell'inflazione anche dalla Germania, più 1,4% su anno è la lettura finale dell'indice armonizzato europeo di maggio ed è sotto il target della Banca Centrale Europea. Non facciamoci però mancare il nostro Weidmann quotidiano, il presidente della Bundesbank, che in questo caso, non potendo evidentemente parlare di inflazione, anche se ultimamente ha ammorbidito i toni, come forse avrete notato, ha messo in guardia da passi che sostanzialmente significherebbero un'introduzione degli euro bond, ossia la condivisione del debito in Europa. Ne ha parlato a Francoforte in occasione dei 60 anni della Banca Centrale tedesca. Un'istituzione ufficiale europea che portasse sul mercato gli European Safe Bonds, ha detto Weidmann. European Safe Bonds, che erano contenuti in questo documento sull'euro, questa sorta di libro bianco sull'euro presentato a Bruxelles, potrebbe essere interpretato come un trampolino verso i cosiddetti euro bond, in quanto la garanzia di alcuni stati verrebbe completamente mutualizzata. A proposito di Corte di Giustizia Europea, oltre alla sentenza sul latte di soia, che a questo punto non è più un latte di soia, quel liquido di soia che qualcuno chiama latte e del quale vi abbiamo parlato poco fa, c'è anche un'altra sentenza che riguarda The Pirate Bay, che è quella piattaforma di condivisione di molte cose, tra cui opere protette da copyright. La fornitura e la gestione di una piattaforma, dice la Corte di Giustizia, possono costituire una violazione del diritto d'autore anche se le opere sono messe online da utenti della piattaforma di condivisione. Quindi, che cosa vuol dire in sostanza? Che anche se tu ti trinceri dietro il fatto che sei solamente una piattaforma e metti a disposizione l'infrastruttura tecnologica perché le persone possano condividere queste informazioni o questi dati o appunto queste opere protette da copyright, non sei esente da responsabilità. E a proposito di Europa, da giovedì, da domani, finiscono gli extra costi roaming nell'Unione Europea. Chiamate, sms, dati estero costeranno sostanzialmente come a casa. Questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24 del Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Da domani le compagnie telefoniche non applicheranno alcun sovrapprezzo sui servizi in roaming, così quando saremo in viaggio in un altro paese dell'Unione Europea potremo fare chiamate, inviare messaggi, utilizzare i dati per la navigazione web agli stessi costi previsti in Italia dal nostro piano tariffario. Per arrivare a questo risultato ci sono voluti 10 anni di trattative, a volte dure e pesanti, tra le istituzioni europee che fortemente hanno creduto in questo obiettivo e gli operatori telefonici un po' preoccupati per la perdita di business. Ora si dovrà monitorare l'applicazione di questo accordo perché sono previste molte eccezioni per evitare abusi da parte dei consumatori, eccezioni che però non devono diventare un vantaggio per le compagnie telefoniche. Però ecco, al di là degli aspetti tecnici, la piccola rivoluzione che scatta domani ci suggerisce che insieme a un'Unione Europea malata di rigidità, di rigore, che sentiamo distante dalle nostre esigenze, insieme a questa Europa che non ci piace, ne esiste una che spinge invece in una direzione che fa bene ai cittadini. Succede ora con gli smartphone, è successo qualche anno fa, quando la liberalizzazione del traffico aereo ha portato alla nascita delle compagnie low cost, che oggi consentono a milioni di cittadini di volare a prezzi inimmaginabili. Oppure pensiamo all'apertura delle frontiere, alla possibilità di stabilirci e lavorare ovunque nei paesi dell'Unione. Ecco, domani 15 giugno è una tappa per ricordare che esiste un'Europa dei cittadini alla quale sarebbe sciocco rinunciare, ma che anzi va costruita molto più velocemente. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E poi ci arriveremo a questa questione del latte di soia, che non si può più chiamare tale, perché qualche ascoltatore l'avete fatto anche oggi in effetto giorno, a dire il vero. Avete detto, ma il latte di mandorla, viene riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea come un prodotto che ha un nome tradizionalmente è quello, e quindi conserva il nome di latte di mandorla. Ma capirete che è un'altra cosa, il latte di mandorla non è sostitutivo del latte, è uno sciroppo che unite all'acqua e che bevete come l'orzata, insomma, quindi è leggermente diverso. Ci fa notare un altro ascoltatore invece via WhatsApp, giustamente, che uno dei motivi del ribasso del prezzo del greggio oggi è l'andamento delle scorte americane. Le scorte settimanali di petrolio sono scese di 1,661 milioni di barili, gli analisti si attendevano un calo di 2,600 milioni di barili, quindi i dati sull'occupazione europea: boom nel primo trimestre del 2017, 234 milioni di occupati nell'Europa a 28, di cui 154 milioni nella zona euro, il più alto livello di sempre per entrambe le aree, scrive Eurostat, e ci arriveremo più avanti, così come arriveremo ai dati sul lavoro nella pubblica amministrazione. 500.000 di precari su un totale di lavoratori che sfiora i 3,5 milioni. La questione delle banche venete, anche questo sarà un argomento che tratteremo. Abbiamo l'Unione Europea oggi che ribadisce che si lavora ad una soluzione senza bail-in, così come aveva detto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, il quale oggi in audizione ha confermato l'assenza di rischio bail-in. Più avanti lo ascolteremo. Chiarisce che alle altre banche è richiesto un intervento su base volontaria. E abbiamo dichiarazioni che arrivano anche dalla Banca d'Italia. Dice il governatore Ignazio Visco in audizione: non è in crisi il sistema delle banche ma i singoli istituti. E dice il vice direttore generale della Banca d'Italia Fabio Panetta che serve una soluzione in tempi brevi. Come non essere d'accordo? La questione che continuiamo a sottolineare ogni volta che ci occupiamo del tema. Più vai avanti, peggio è per le stesse banche che devono essere salvate. Alitalia. Ad oggi oltre 600 milioni di liquidità sono ancora interamente nella disponibilità di Alitalia, lo dice il commissario Luigi Gubitosi in audizione alla Commissione Industria e Lavori Pubblici del Senato, e chiarisce che la base costi di Alitalia negli ultimi due anni è aumentata, non sono state fatte sinergie con Etihad. Sentiamo. La base costi è aumentata nel periodo di gestione negli ultimi due anni, il che rende più complicato poi tagliarli. In realtà c'è stato un problema di execution, perché non sono state fatte sinergie con Etihad, che erano veramente possibili. Quindi direi che l'approccio, l'idea, diciamo, in un mondo che si concentra con pochi grossi gruppi, l'idea di avere alleati e averne uno importante è giusta, tant'è vero che la procedura porta in quella direzione. Il modo con cui è stato implementato, sintetizzo per motivi di tempo, è stato quello sbagliato. La nostra spinta è verso non fare lo spezzatino, ma mantenere un'unitarietà della compagnia. L'importante, credo, che sia anche presentare ai potenziali soci una compagnia che sia credibile, e quindi diventa molto importante il piano industriale, avere quindi un contesto che sia, come dire, difendibile, che agli occhi di chi possa investire in Alitalia abbia un senso, ecco. È in questo senso che si sta lavorando sul piano industriale, per avere appunto un piano industriale in continuità, ovviamente in miglioramento rispetto al passato. Così dunque Gubitosi, il quale ha anche detto il posizionamento su Linate è molto forte, intendiamo mantenerlo e ipotizziamo di far crescere Malpensa. Sentiamo. Sugli scali milanesi, evidentemente il nostro posizionamento a Linate è molto forte e intendiamo rimanervi a cercare di spingere su Linate e ipotizziamo anche di far crescere Malpensa, in particolare su alcune rotte. Abbiamo anche bisogno di avere l'accordo dei nostri partners, diciamo, per quanto riguarda il Nord America, però diciamo il posizionamento su Linate e Malpensa c'è molto chiaro e intendiamo farne un punto di forza, come peraltro già è per quanto riguarda Linate. Ed eccoci di nuovo, sempre in diretta, tanto su Radio 24 quanto sulla pagina Facebook di Radio 24, dalla quale andiamo in diretta video. Se volete potete commentare pure là, magari non sul look come ha fatto Andrea. È vero che siamo in video, però insomma dice, ma insomma siamo negli anni 2000, ma perché tu e Barisoni vi mettete sempre la cravatta? Che le devo fare? A me piace, a me la giacca è uno strumento comodo, ogni tanto ci appoggio anche la cravatta, soprattutto quando c'è un'aria condizionata così forte, non come in questo caso, ma all'interno delle nostre redazioni, perché mi protegge la gola. Parliamo di dipendenti pubblici e non solo, perché oggi è stato diffuso il censimento permanente dell'Istat sulle istituzioni pubbliche, o meglio diffuso, è iniziato questo censimento delle istituzioni pubbliche. Noi poveri ingenui che pensiamo che le amministrazioni pubbliche non abbiano bisogno di un censimento perché tutti i dati dovrebbero essere disponibili, aperti, pronti e consultabili da chiunque, poveri noi, però abbiamo bisogno del fatto che l'Istituto di Statistica faccia un censimento delle istituzioni pubbliche, nel quale registra che c'è quasi 500.000 di precari su un totale di 3.500.000 di lavoratori pubblici, che gli statali si concentrano al sud. Pensa, il 35,3% del totale, metà degli occupati è donna ma poche sono ai vertici, e poi alcuni elementi che vi riferivo già prima, questo meno 1,1% dei dipendenti pubblici nel periodo tra il 2011 e il 2015, un calo probabilmente dovuto essenzialmente al blocco del turnover e alle uscite per pensionamenti e via dicendo. E dall'altra parte, quello che devo dire continua a colpirmi è questo utilizzo smodato dell'affidamento diretto quando si tratta di servizi esterni. Nell'assistenza sanitaria sfiora l'affidamento diretto, cioè non si passa da gara d'appalto, non si passa da Consip, sfiora il 66%. Carlo Mocchi Sismondi, presidente di Forum PA, buonasera e bentornato ai nostri microfoni. Grazie a lei di avermi invitato, buonasera a lei e agli ascoltatori. Io però la devo far attendere un attimo perché siamo in ritardo sulla pausa per sentire la pubblicità, il meteo, ci ritroviamo subito dopo e affrontiamo almeno due o tre di questi argomenti. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Dottor J e Mr. I. Trasforma la tua azienda con J. Galileo e Power 8. jgalileo.com. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, vedo che è partito un grande dibattito, cravatta, non cravatta per i conduttori di Radio 24. Faremo un sondaggio. Commentando il dato sul calo dei lavoratori della pubblica amministrazione tra il 2011 e il 2015 dell'1,1%, un ascoltatore sarcasticamente dice: ecco da cosa è dipeso questo lieve rallentamento nell'efficienza della macchina pubblica. Carlo Mocchi Sismondi, perché in realtà il problema non è tanto quanti dipendenti hai, ma come li fai lavorare. Poi il quanti dipendenti hai è un altro ragionamento, ne possiamo discutere in termini appunto di spending review, eccetera eccetera, però il punto innanzitutto è come fai lavorare questi dipendenti, no? Assolutamente. Partiamo da sfatare un mito: in Italia i dipendenti non sono troppi rispetto alla Germania, rispetto al Regno Unito, rispetto alla Spagna. Il problema è come sono distribuiti e come lavorano, questo è il punto. Sono di meno come percentuale sulla popolazione residente di tutti gli altri tre paesi che ho nominato. Il problema è che hanno un'età media sopra i 50 anni. Cioè abbiamo solo il 6,9% che è sotto i 35 anni, non detto 25, detto è 35, 6,9%. Il 59,4% alla scuola dell'obbligo o la licenza media. Gli facciamo solo 0,8 giorni di formazione l'anno di media, cioè molto meno, diciamo un quinto degli altri paesi europei. Sì, e poi. Sto dicendo solo tre punti, sì. di un massimo. Impressionante il dato sull'istruzione. Dal lato della formazione, anche qua l'Istat fornisce dei dati, perché dice che nel 2015 poco meno del 50% delle istituzioni pubbliche ha dichiarato di aver fatto attività di formazione per il personale e solo il 14% ha adottato un piano formativo. È vero però che questo riguarda soprattutto i piccoli comuni, perché se si guarda invece al numero di dipendenti, no, che ha avuto un corso di formazione, sì, però 90%, però quello che volevo dire è appunto questo: dipende anche dalla qualità di questa formazione. Se la formazione è una formazione obbligatoria sulla sicurezza, niente da dire, è bene che si faccia, ma poi non stiamo facendo una formazione specifica che fa crescere la qualità della pubblica amministrazione. A parte che nel dato Istat mi manca proprio esattamente il numero delle ore, che noi abbiamo rilevato da un altro dato della ragioneria, ma posso fare formazione, dire che ho fatto formazione perché ho fatto un corso di mezza giornata sulla sicurezza sul posto di lavoro, non mi basta, insomma ci vuole un approfondimento maggiore. Sicuramente sulla formazione stiamo spendendo molto molto meno di quanto spenderà l'Italia stessa 15 anni fa, e quindi non ce lo possiamo assolutamente permettere, specie con una popolazione così vecchia, un blocco del turnover, non è possibile. Sì, poi appunto come si diceva, dipende da come fai la formazione e probabilmente anche a chi la affidi, evidentemente, no? Perché probabilmente ci vogliono delle professionalità esterne per formare i dipendenti pubblici al nuovo, anche semplicemente al digitale, soprattutto vista l'età avanzata che hanno. Assolutamente, lei consideri che noi abbiamo preso 30 anni fa, 40 anni fa tutti i giuristi, amministrativisti oppure figure più basse di qualifica perché ci servono per dare autorizzazioni. Adesso ci servono ingegneri dei dati, ci servono economisti, ci servono project manager, ci servono negoziatori, ci servono data architect. Tutta questa gente qui non la troviamo da un momento all'altro. Le professionalità migliori, le teste migliori che abbiamo, bisogna che le formiamo. Non si scampa da questo. Purtroppo la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, che la SNACOS, l'attuale Scuola Nazionale di Amministrazione, ha un compito enorme, ma secondo me è sottodotata per poter fare un compito così gigantesco. E sul fronte della qualità com'è? La scuola? La scuola sì. È come tutte le scuole, alcune di eccellenza, alcune un po' meno. Io mi affiderei molto di più alle nostre eccellenze italiane all'università, dove ancora abbiamo delle eccellenze vere. E poi mi affiderei molto alla capacità a chi sta sul campo, cioè le best practice migliori. Se abbiamo i dirigenti migliori che hanno fatto le cose migliori, portiamoli a insegnare a chi non ci fa fare. Insomma, creiamo delle forme di scambio e di gemellaggio dove le best practice non diventano solo da mettersi la medaglietta, ma diventano le cose da copiare. Perché ovviamente all'interno della pubblica amministrazione questi livelli di comunicazione non ci sono, chiaramente, no? Molto scarsi i punti in cui si scambiano le esperienze migliori. Le dico, noi adesso stiamo mettendo insieme i vertici amministrativi delle regioni, cioè i capi di ogni regione, non si erano mai incontrati. Cioè non hanno l'abitudine proprio di scambiarsi le best practice tra di loro, ma anche semplicemente le esperienze, perché ognuno ricomincia un problema come se dovesse reinventare la ruota da capo. Magari una regione è eccellente in una cosa, un'altra è eccellente in un'altra, ma non si pensa a dire allora io copio da te, tu copi da me e così risparmiamo soldi, facciamo prima, evitiamo di fare errori. Beh, forse a volte, mo che si smondi, anche perché i soldi non si vogliono risparmiare, perché molto semplicemente questo mi consente, il fatto di reinventare la ruota mi consente di pagare l'inventore, di pagare l'azienda che me la produce. Questo, a volte c'è anche questo, non credo che sia solo questo però. Perché io vedo invece, quando facciamo questi tavoli di confronto come Forum PA, io vedo grande entusiasmo, Quindi a volte c'è questo, a volte c'è proprio che ogni amministrazione ragiona un po' come una monade. 12.000 monadi fanno purtroppo un arcipelago dove mancano i traghetti da un'isola all'altra. Ecco, questo è un problema grave. A proposito dei dati che ci forniva lei, mo che si smondi, che sono dati che in realtà abbiamo già sentito, no? Quelli sulla quantità di dipendenti pubblici rispetto ad altri paesi europei. Ci fa notare un ascoltatore, in questi calcoli sono comprese le partecipate oppure no? Sì, sono comprese le partecipate, allora in maniera diversa, cioè lei sa che purtroppo questo è un paese che fa un po' botte con i numeri, per cui l'Istat ha compreso anche gran parte delle partecipate, la ragioneria del generale dello Stato di meno, per esempio l'UK prende tutte le agenzie di qualsiasi tipo purché siano agenzie pubbliche, e arriva insomma oltre 5 milioni, però siamo molto molto al di là. Diciamo il dato incontrovertibile è che sono di meno i dipendenti pubblici italiani, comprese le partecipate. Il punto è che appunto sono di meno, ma purtroppo non suppliscono a questo essere di meno con una maggiore qualità. Questo è il punto grave. Che è l'elemento fondamentale. Che è l'elemento fondamentale, certamente. Io la ringrazio, grazie a Caromo Chisismondi per essere stato con noi, presidente di Forum PA. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi subito dopo ci troviamo e parliamo ancora di questa vicenda. Vedo che ci arrivano molti messaggi su questo, la vicenda del latte, la Corte di Giustizia Europea che decide che sostanzialmente quello di soia non si può chiamare latte. Qualcuno dice si occupassero di altre cose, il solito discorso è una Corte di Giustizia, è come un tribunale, viene chiamata a decidere su una cosa e quindi decide su quella cosa, non è che si può occupare di altro, c'è una causa in corso, la Corte di Giustizia Europea decide, non è che si mette là e a uzzo prende l'idea e dice vabbè, oggi mi occupo del latte di soia. Traffico. Focus Economia. Qualche ascoltatore scrive, molti dipendenti pubblici non si assumono alcuna responsabilità di sorta, fanno il loro compitino e poi se appena sufficiente va bene. Questo è vero da una parte, dall'altra parte sapete che qua non è che siamo proprio in un luogo di difensori dei dipendenti pubblici. È vero anche dall'altra parte che spesso ci sono norme in forte contraddizione tra loro e spesso è anche difficile per lo stesso dipendente pubblico prendersi la responsabilità. Non sto assolvendo i dipendenti pubblici, sia chiaro. Perché magari a volte anche quando potrebbero prendersi la responsabilità non se la prendono, però è vero anche che ci sono molte norme contrastanti tra loro e si fatica a trovare il filo di tutto questo. Massimo Forino, direttore generale di Assolatte, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie della telefonata. Allora, per parlare appunto di questa sentenza della Corte di Giustizia Europea, la controversia vede opposte la società Tofu Town, che produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani con denominazioni come burro di tofu e veggie cheese, e la Verband Sozialer Wettbewerb, un'associazione tedesca che si batte contro la concorrenza sleale. Che cosa ha stabilito la Corte di Giustizia Europea? Ha stabilito appunto che il latte di soia, latte non lo puoi chiamare. Immagino che siate soddisfatti. Assolatte, lo ricordo, rappresenta il primo settore del Made in Italy alimentare, 200 aziende, il 90% del fatturato complessivo del settore, latte da bere, yogurt, latti fermentati, burro e tutti i formaggi. Siete soddisfatti, immagino, no? Siamo molto soddisfatti e molto contenti, soprattutto è una sentenza che conferma quello che noi diciamo da molti anni, non è una novità. La Corte di Giustizia ha solo ricordato che ci sono delle regole e che queste regole vanno rispettate. Sono 30 anni che i nomi dei prodotti lattiero-caseari sono tutelati, latte, burro, formaggio, yogurt e crema sono riservati per legge in tutta Europa ai prodotti che derivano dal latte. Non esiste quindi la possibilità per nessuno di utilizzarli, di approfittare della fama di questi prodotti per promuovere prodotti alternativi. Giacomo Allevatore da Bergamo ci scrive: finalmente il latte è quello che sto mungendo io. Vabbè, è fantastico, ormai è, tanto ormai è battaglia tra vegani, carnivori e via dicendo, e quindi siamo così. Ma non c'è una vera battaglia, qui c'è qualche azienda che ci urla nel manico e non voleva rispettare le regole, dicendo che i consumatori, sostenendo che i consumatori con il tempo avevano smesso di associare il nome latte ai prodotti che derivano dalle vacche, dalle pecore, dalle capre, dalle bufale. Questo appunto per quanto riguarda il latte di soia, come si dice, riguarda molti altri prodotti, riguarda appunto anche il famoso formaggio di tofu, no? Sì, lei continua a chiamare formaggio di tofu. Lo so, abbia pazienza. La Corte di Giustizia ha detto che non si può. Mi sanzionerà la Corte di Giustizia europea, Forino. No, ha detto che nessuno di questi nomi può essere utilizzato, ma noi questa sentenza l'abbiamo accolta con molto piacere, e le ripeto, confermo una linea che in Italia è stata sostenuta anche dal Ministero dello Sviluppo Economico più di una volta. Noi siamo su una posizione ancora più oltranzista, perché secondo noi e anche secondo il Ministero non si può dire neanche che questi sono prodotti alternativi al formaggio. È come dire che lei va al supermercato e trova, posso leggere albicocche, legge alternativa alle pesche. Ma ha senso questa cosa? Bisogna che questi prodotti abbiano un loro nome, una loro denominazione, e che non utilizzino la fama e le denominazioni di altri, che sono riservate ad altri. Ma dal punto di vista normativo, le cose come stanno? Ossia, in Italia dobbiamo aspettare l'applicazione di questa sentenza, o ci sono delle norme che già prevedono che io nel supermercato... Ci sono dei regolamenti molto precisi europei che dicono che questi nomi non possono essere utilizzati. È corretto usare bevanda, è corretto usare preparazione. Ci sono delle eccezioni, perché poi la Commissione europea non è fatta di ottusi, ma è fatta di persone che conoscono il settore. Latte di cocco, latte di mandorla non è una denominazione evocativa, è un nome tradizionale della cultura del Mezzogiorno, quella di chiamare latte di mandorla quello che viene dalle mandorle, oppure il burro di cacao, nessuno contesterebbe, nessuno ha mai contestato questo tipo di denominazioni. Tema diverso è il latte di soia. Il latte di soia non esiste, perché non è latte, è un frullato, un tritato di soia a cui vengono aggiunti degli altri ingredienti per trasformare questo prodotto che nasce solido in una bevanda. Quindi non è corretto utilizzare denominazioni differenti da quelle corrette. Un ascoltatore che probabilmente non è vegano, ma è, diciamo, è per esempio come me, cioè io mangio carne, prodotti lattiero-caseari, eccetera, eccetera, dice: ma i consumatori non sono tutti scemi, capiamo la differenza tra robiola e tofu. È vero da questa parte. Dall'altra parte, un consumatore vegano o che decide di utilizzare questi prodotti può essere indotto in errore da questo nome, no? Il tema è esattamente questo, mi sembra di capire, cioè non è tanto dal lato nostro, per così dire, no? di noi che consumiamo prodotti lattiero-caseari, ma di chi non li vuole consumare può pensare che ci siano, che abbiano le stesse proprietà dei prodotti lattiero-caseari, mentre invece non ce l'hanno. Ma infatti il problema è quello, non è tanto che un consumatore compra per errore un prodotto per l'altro, e non escludo che alcuni lo facciano, perché poi, a differenza di quanto noi pensiamo, tanta gente va al supermercato, va allo scaffale e compra, non sempre compra leggendo quello che c'è scritto sull'etichetta, ma anche una questione di differenze sostanziali tra i prodotti. I prodotti hanno composizioni diverse, hanno ingredienti diversi. Nel latte c'è latte, punto. Negli altri prodotti derivati dai vegetali non c'è latte. Certo. Perché quindi bisogna far pensare alla gente che questi prodotti lo siano o che abbiano le stesse proprietà? Non hanno le stesse proprietà. Possono svolgere forse la stessa funzione, questo sì, ma allora come l'olio di soia, l'olio di semi e l'olio d'oliva? Sì. Hanno la stessa funzione della prima colazione, ma sono prodotti radicalmente diversi, quindi è giusto che abbiano nomi differenti. Allora io la ringrazio, nel ringraziarla Massimo Forino, direttore di Assolatte, dico all'ascoltatrice, sì, Roberta, che ci scrive: così sembra che diate dei cretini ai vegani. No, non stiamo assolutamente dando dei cretini ai vegani, stiamo semplicemente dicendo che alcuni consumatori possono essere indotti in errore tra due prodotti che sono diversi, come ha scritto un altro ascoltatore un po' brutalmente. Ragazzi, la soia non ha le mammelle, quindi c'è poco da fare, latte non è, e non c'è niente da fare su questo. Allora noi adesso ci fermiamo. ci ritroviamo subito dopo GR24 con le informazioni importanti, soprattutto quelle che arrivano da Londra, e parleremo di mercati che chiudono male, meno 0,61% il FTSE MIB, mezzo punto percentuale di calo per il FTSE All Share, male tutti i petroliferi con il calo del prezzo del greggio dovuto anche, come mi si faceva notare prima, all'andamento delle scorte americane. Bene tra i titoli migliori Italgas, Hughes, Net-a-Porter, Moncler, Terna, in fondo al listino Buzzi, Fiat Chrysler, Tenari, Subibanca, Unicredit. Ne parliamo tra poco. Notte di lacrime, preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Una notte da paura, una notte di passaggio, una notte che è anche una festa. Insomma, una notte da vivere e da rivivere. È la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e insieme alla cantante Mariam Mirage vi aspetto martedì 20 giugno dalle 21 alle 24. 3 ore di voci, di sogni, di racconti, di maturandi, di testimonianze, di consigli, di attori, scrittori, artisti per prepararsi insieme all'esame di maturità. La notte prima degli esami. Una notte che è tutto un programma. Ovviamente su Radio 24. In collaborazione con Scuola.net. E ogni giorno sulla pagina web di Cuore e Denari un consiglio pratico per affrontare al meglio la prova. Notte. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister Eye. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Siamo anche in diretta sulla pagina Facebook di Radio 24, in diretta video. Accontento l'ascoltatore una volta, solo una volta, e poi non lo faccio più. Faccio ciao con la manina, ciao con la manina. Questa ci potete anche fare una gif se volete e farla girare, forse è un po' troppo. Voglio dire all'ascoltatore, che è sicuramente un dipendente pubblico e che ci dice che siamo qualunquisti e imbarazzanti perché il paese è pieno di dipendenti pubblici preparati e motivati, voglio dire che lo sappiamo benissimo e lo diciamo in realtà ogni volta. Lo stesso Mochi Sismondi ce l'ha detto abbastanza nitidamente. I problemi sono molti, sono gli scambi di esperienze, la comprensione del fatto che ci sono delle best practice, così come si dice, insomma, buone pratiche che possono essere esportate da un'amministrazione all'altra, c'è un problema di formazione e poi però insieme a questi tanti dipendenti pubblici bravi, motivati e preparati ce ne sono tanti che non sono né bravi né motivati né preparati, perché tocca dirsene le cose. Ci sono anche nelle aziende, sì, ma le aziende non le paghiamo tutti noi. E su, non è difficile. I mercati che chiudono male, meno 0,6% per il FTSE MIB, mezzo punto percentuale di calo per il FTSE All Share, con Parigi che cede lo 0,35%, Francoforte che guadagna lo 0,3%, l'America è positiva sul Dow Jones dello 0,03%, lo Standard & Poor's 500 cede lo 0,10%. Andrea Fontana, Radio Cuore del Sole 24 Ore, buonasera, ciao. Buonasera Simone. Inizia a darci un quadro di giornata, va. È un quadro di giornata che è stato modificato sensibilmente dalla pubblicazione dei dati americani sull'inflazione e sulle vendite al dettaglio, che hanno deluso a maggio e che quindi hanno fatto ritirare le scommesse di coloro che pensavano che la Federal Reserve, dopo il ritocco al costo del denaro atteso questa sera, possa quanto prima nuovamente operare un aumento dei tassi di interesse americani. Per questo sono stati venduti i bancari, per questo è scivolato significativamente ai minimi da 9 mesi sull'euro il biglietto verde americano, cioè il dollaro, e questo scenario è stato accompagnato poi da un forte tonfo del petrolio dopo le scorte di greggio americane scese meno delle attese e ha fatto così. Ha fatto così il nostro Andrea ha fatto cadere tutti i listini azionari. Appunto, ci stavi parlando del greggio, ma per un attimo è andata via la linea, non sappiamo perché, però appunto lo abbiamo raccontato anche in apertura di trasmissione, c'è stato un calo delle scorte inferiore alle attese, cioè i mercati si attendevano che le scorte scendessero molto di più di quanto non sono effettivamente scese, le scorte di greggio negli Stati Uniti, e il petrolio è arrivato a perde in questo momento circa il 3,5%, sia il WTI che il Brent, sia quello di New York, che quello di Londra, e quello del mare del nord. Questo per quanto riguarda il quadro generale. Ovviamente la cosa ha avuto un impatto sui petroliferi, nemmeno a dirlo, Tenaris giù del 2,7%, abbiamo giù anche Saipem che c'è dell'1,28%, Eni l'1,07%, quindi sorvoliamo perché le motivazioni mi sembrano evidentemente queste. Ti porterei sui bancari, perché tra l'altro poi ne parleremo tra un attimo. Sì, i bancari hanno avuto una mattinata positiva, proprio un po' in attesa di quelle che potevano essere le indicazioni della Federal Reserve, ma poi appunto i dati americani che fanno prospettare una Federal Reserve ferma nei prossimi sei mesi dell'anno disegnano uno scenario con tassi di interesse fermi, quindi dai due lati dell'Atlantico, e questo normalmente non è positivo per le banche, che hanno corretto, è stato il settore peggiore insieme ai minerali energetici, tant'è che a livello europeo l'indice ha perso l'1,33%, e anche quelle banche che erano state protagoniste la mattinata, come Banco BPM, dopo l'annuncio di una vendita di cartolarizzazioni di crediti deteriorati per circa 700 milioni di euro, ha chiuso sotto la parità, anche se ha perso poco meno dello 0,1%. Brevemente Fiat Chrysler. Fiat Chrysler ha pagato due fattori, l'indiscrezione riportata da Wall Street Journal, secondo cui uno studio della West University, della West Virginia University, avrebbe rilevato delle discrepanze tra le emissioni delle auto in test da laboratorio, auto Fiat Chrysler naturalmente, e le emissioni su strada, anche se non è, diciamo così, uno studio che rientra nell'inchiesta in corso negli Stati Uniti su questo problema, ma ha pesato naturalmente su Fiat Chrysler. Poi anche il fattore dollaro, vista l'esposizione del gruppo negli Stati Uniti, certo, ha determinato questo meno 3%. Meno 3%, appunto, come si diceva per Fiat Chrysler. Buzzi Unicem giù del 3,38%. Bancari, ci dicevi, UbiBanca meno 2,4%, Unicredit meno 2,16%, Banca Generali meno 1,8%, abbiamo Mediobanca che c'è dell'1,39%, e questo è il quadro complessivo. Atlantia. Atlantia si è ben comportata, ha guadagnato l'1%, anche qui due elementi, un primo elemento diciamo di riscatto dei difensivi come è Atlantia, anche sui movimenti dei titoli di Stato, e abbiamo visto anche le utility come Italgas, Terna, due a ben comportarsi quando è girato il mercato nel pomeriggio, ma poi quello che si attende dopo le dichiarazioni ieri dei vertici sull'offerta presentata per Abertis è la presentazione probabilmente domani dei documenti alla Consob spagnola per far partire, per ottenere l'autorizzazione, ci vorrà qualche settimana per far partire questa offerta pubblica di scambio funzionale alla questa grossa integrazione nel settore infrastrutturale tra l'italiana Atlantia, che ricordiamo ha Autostrade per l'Italia e gli aeroporti, la gestione degli aeroporti di Roma, e Abertis, società appunto infrastrutturale spagnola. Buone indicazioni sulla crescita del settore cavi per le telecomunicazioni, quindi bene Prismian, più 0,78%, e in 20 secondi le utilities che oggi sono andate bene, no? Sì, sono comportate bene come i titoli di Stato, tant'è vero che sono stati oggetto di acquisti significativi, non solo diciamo così i titoli rifugio come il titolo di Stato americano, il decennale, che ha toccato i nuovi minimi dell'anno in termini di rendimento, ma anche il BTP è tornato a un rendimento dell'1,93%, un movimento da difensivi che quindi ha premiato tutte le utility, bene anche il lusso come Moncler e Jux, ancora bene anche Luxottica, ieri è arrivata questa indicazione di Morgan Stanley di sinergie per quasi 800 milioni dall'aggregazione con la francese Essilor. Allora, grazie ad Andrea Fontana di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ci ritroviamo. Due temi ci rimangono. Il primo è il dato sull'occupazione europea, un boom degli occupati nel primo trimestre del 2017, il più alto livello di sempre sia per l'Europa sia per l'Unione Monetaria, sia per l'area euro. Però questo dato nasconde anche un tema di qualità di questa occupazione. E poi le banche. Focus Economia. Oh, non so se faccia veramente bene questa diretta video che facciamo su Facebook, perché vedo che vi state concentrando su questo tema della cravatta in maniera molto energica. Buon ultimo l'ascoltatore che dice: non è la cravatta che rende un uomo serio, per cui va bene anche solo la camicia. Ok, io domani vengo in mutande, conduco in mutande, mi vedrete sulla pagina Facebook in mutande, così posso dimostrare di essere un uomo serio. Parliamo di cose serie, va, in questo caso di lavoro, del boom degli occupati nel primo trimestre del 2017 in Europa, 234 milioni nell'Europa 28, 154 milioni nella zona euro, il più alto livello di sempre per entrambe le aree, stando a quanto scrive Eurostat, che è l'ufficio di statistica dell'Unione Europea. Occupazione salita dello 0,4% sia nell'Eurozona che nell'Europa a 28, stabile. In Italia l'occupazione è salita dello 0,3%. Francesco Seghezzi, direttore della fondazione ADAPT, torna da noi. Buonasera Seghezzi, bentornato. Buonasera, grazie dell'invito. La cosa che ci interessa qua è capire più che altro che cosa nasconde questo dato sull'occupazione, perché c'è un tema di quantità ma c'è anche un tema di qualità dell'occupazione. Di che qualità è questa occupazione? Cioè che tipo di lavori sono, Seghezzi? Questo dipende molto dai paesi che analizziamo. Dal punto di vista della qualità ci sono due aspetti a cui guardare. Il primo è se si tratta di occupazioni part-time o occupazioni a tempo pieno, perché in questo caso se noi andiamo a prendere come unità ad esempio le ore lavorate, evidentemente il part-time significa metà di queste ore. E sappiamo che il part-time è cresciuto molto negli ultimi anni. Una delle tendenze della ripresa occupazionale post-crisi, o chiamiamola nella fase di ripresa, diciamo così, è stata che molti posti di lavoro sono stati part-time, ad esempio in Italia, ad esempio in Francia, ad esempio in Spagna, in diversi paesi. E l'altra tipologia invece sono i cosiddetti contratti, possiamo dire, non stabili, precari, chiamiamoli come vogliamo, che caratterizzano molta della ripresa. Penso all'Italia, in cui nell'ultimo anno quello 0,3% di crescita di cui parla l'Eurostat, e poi dell'1,1% sull'anno, di questi lo 0,8% è stata la crescita dei tempi indeterminati, mentre il tempo determinato è cresciuto dell'11%. Tra questi il tempo determinato a part time è cresciuto del 18%. Stessa situazione in Spagna, in cui la durata media dei nuovi contratti è tendenzialmente inferiore a un mese, quindi si tratta di contratti molto, molto veloci. Quindi, come giustamente diceva lei, il lavoro c'è dal punto di vista della quantità, quindi tutto il dibattito su se il lavoro finisce, se il lavoro scomparirà, eccetera, passi in secondo piano rispetto a che tipo di lavoro abbiamo. Questa è la domanda da porsi oggi. È la vera grande domanda, è un po' sulla scorta di quello a cui la Germania deve molto, no? In termini di crescita occupazionale, no? È stata in un certo senso un caposcuola da questo punto di vista, in Europa dico naturalmente. Certo, la Germania da quando soprattutto ha introdotto i cosiddetti mini jobs ha visto una grande crescita occupazionale. La Germania però è riuscita a accompagnare, diciamo, a dare ai mini jobs lo spazio che meritavano in qualche modo, per cui a fare contratti brevi, contratti a termine veramente molto breve, soprattutto però in settori in cui, diciamo, c'è forte stagionalità o forte fluttuazione dei mercati. Il problema è quando si utilizzano i contratti brevi a termine molto breve, o ad esempio in Italia l'esempio principale è i tirocini. In Italia si utilizzano tantissimi tirocini al posto di veri contratti di lavoro, e l'Eurostat dal 2012 conta i tirocinanti come occupati, come se avessero un contratto. Il punto è quando si utilizza l'occupazione, diciamola, non stabile, se la si utilizza per un'effettiva domanda di mercato rispetto a appunto, mercati non totalmente stabili e stagionali, bene, se la utilizza come surrogato dell'occupazione stabile per risparmiare sul costo del lavoro, questo a lungo termine ha dei problemi in termini di produttività. Grazie Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione Adapt, per essere stato con noi, e ora parliamo di banche. Pour me a taste of something good. Allora, prima ancora di andare più che altro al tema generale, perché insomma siamo ancora in sospeso per quanto riguarda Veneto Banca e Popolare Vicenza, e quindi al tema generale di come vengono gestite le crisi a livello europeo, perché questo rappresenta un tema, con Guido Rosa, che è presidente dell'AIBE, l'Associazione Italiana Banche Estere, che saluto, buonasera. Buonasera. Voglio parlare di questo indice che voi presentate ogni anno, lo presentate insieme al Censis, è un indice che misura l'attrattività del paese per gli investitori esteri. E qua c'è una brutta notizia, perché rispetto all'anno scorso il calo è abbastanza netto. Sì, purtroppo è così. È uno studio abbastanza articolato, si tratta di prendere l'opinione di un panel di una cinquantina di operatori internazionali appunto sull'attrattività del sistema Italia e i temi che attraggono, che respingono gli investitori in genere per i loro appunto investimenti esteri, soprattutto per l'Italia. Lo studio si conclude poi con un indice sintetico che appunto sta ad indicare il grado di attrattività. Questo indice purtroppo è diminuito di un 7 punti, quindi diciamo di un 15-20% rispetto all'anno precedente. Anno precedente che invece aveva avuto un miglioramento netto rispetto all'anno precedente ancora, quindi parliamo del 17-16-15. A cosa è dovuto questo calo brevemente? Brevemente, il calo è dovuto sostanzialmente fondamentalmente al fatto che si erano create delle aspettative di riforme in questo paese l'anno scorso, che naturalmente non si sono assolutamente completate. I punti dolenti che vengono indicati da questi panelisti sono la solita triade dei grandi difetti del nostro sistema: la burocrazia, il fisco e naturalmente la giustizia. L'aggravante quest'anno è che naturalmente si è sentito molto di più l'elemento di mancanza di stabilità politica. Certo, la preoccupazione per un eventuale voto a breve, dopo evidentemente la caduta del governo, il referendum e la caduta del governo. L'esito negativo del referendum è stato un elemento di grande preoccupazione per tutti gli investitori internazionali. Allora, abbiamo ancora pochissimo tempo, io non la voglio e non la posso nemmeno portare in quanto rappresentante appunto di un'associazione sui singoli casi di Veneto e Vicenza e nemmeno di Monte dei Paschi, però per quanto riguarda le due Venete non si esclude la possibilità di un intervento da 1,2 miliardi da parte del sistema bancario, c'è un tema che rimane sullo sfondo e rimane la questione della gestione delle trattative a tre, sì, sostanzialmente, no? Tra Francoforte, Bruxelles, ossia la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea e l'Italia. Un processo che è stato abbastanza macchinoso, anzi molto macchinoso, anche per il Monte dei Paschi, e lo sta diventando un po' anche per le due Venete, e che rischia di creare molti problemi, perché più vai avanti col tempo, più rischi che i correntisti fuggano, più hai bisogno di capitale in una sorta di circolo vizioso. C'è qualcosa in questo meccanismo complessivo e anche nei meccanismi di vigilanza, secondo lei, che non funziona a puntino? Lei ha descritto perfettamente. Qui c'è un problema drammatico, e uso una parola sapendo quello che dico, di tempistica. Come lei ha detto giustamente, qui si tratta di banche, si tratta quindi di aziende che lavorano sulla fiducia. Se tiriamo in lungo, per qualsiasi ragione, queste situazioni di dubbio, creiamo dei grandissimi problemi. Abbiamo degli esempi assolutamente contrari. Negli Stati Uniti, un po' di anni fa, cosa hanno fatto? Nel giro di 48 ore sono intervenuti ed è il problema è stato, non dico risolto, ma comunque è stato preso in mano in maniera radicale e drastica. Non è possibile. Adesso è molto difficile, sarebbe lungo stabilire se le responsabilità sono dell'Europa piuttosto che... Ma insomma, tutto il marchingegno, come lei l'ha descritto, il triangolo, Bruxelles, Francoforte, Roma, non funziona in questo senso perché il tempo è nemico mortale di questa situazione. La ringrazio e la ringrazio anche per la sintesi. Guido Rosa, presidente di AIBE, l'Associazione Italiana Banche Estere. E così chiudiamo questa puntata di Focus Economia, ringraziando Andrea Roccabella in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto, anche a quelli che hanno scritto sul tema della cravatta. L'ultimo dice: sì, vieni pure in mutande, ma con la cravatta, niente male. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24, libera la voglia di fare.